Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Bicipite, trapezio, gran dorsale, piccolo rotondo, sterno, credo, mastoide, flessore, sensore. Quanti sono? Alcuni hanno nomi davvero impronunciabili. Parlo dei muscoli. I vostri hanno risposto presente al vostro ritorno in palestra o sono ancora svenuti o si stanno riprendendo a poco? Oggi prendiamo il primo caffè della giornata con il dottor Stefano Respizzi, fisiatra, direttore del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale all'Humanitas. Buongiorno dottor Respizzi, bentornato. Buongiorno Nicoletta, grazie a voi. Dottor Respizzi, dovevo invitarla perché molte persone si sono lasciate un po', no, prendere dall'entusiasmo adesso che in quasi tutta Italia le palestre hanno riaperto, ma i muscoli si lamentano perché l'entusiasmo è tanto, ma i muscoli probabilmente erano un po' addormentati, insomma non erano più quelli di 3 mesi fa, li abbiamo lasciati in un modo e li abbiamo portati in palestra in un altro. Assolutamente d'accordo, devo fare una precisazione, non è mai accaduta questa situazione in Italia, questo è incredibile, non ci pensiamo, ma non abbiamo mai avuto un lockdown, non è mai successo, quindi è la prima volta che stiamo studiando un fenomeno fisico, cioè l'immobilizzazione, una vera e propria, chiamerei, sindrome di immobilizzazione, che ha colpito milioni di persone, tendenzialmente sane, la maggior parte, che sono state obbligate in casa. Questo secondo me è un aspetto interessante che di fatti stanno studiando i ricercatori per capire esattamente che cosa è successo, ma noi sappiamo dalla letteratura la sindrome di immobilizzazione, che magari è provocata perché uno rimane allettato per qualche motivo di salute, eccetera, abbiamo già delle indicazioni importanti. Quindi dobbiamo stare molto attenti a interpretare bene le condizioni del paziente. Io faccio un esempio, Nicoletta, che è molto pratico. Sì. Noi di solito diciamo che bisogna fare almeno 10.000 passi al giorno. Stando chiusi in casa, al massimo se ne fanno 1.000 o 1.500. Quindi sì. Pensi che impatto ha sul nostro organismo essere vincolati in una casa a non poter fare nulla di quello che siamo abituati di solito a fare. E questo dato comporta una certa inattività fisica, appunto, che purtroppo è spesso accompagnata anche da un aumento di peso, si vede anche sui social molte persone che dicono beh tanto ero a casa cucinavo e non ci si accorge che magari si aumenta di peso. C'è stata un'insufficiente esposizione alla luce solare, che per noi è benefica e tra l'altro nel periodo migliore, perché aprile e maggio sono sicuramente, marzo e aprile sono mesi sicuramente interessanti da questo punto di vista. Si sono sviluppati anche disturbi di tipo comportamentale, da dipendenza ad esempio da videogiochi, piuttosto da essere sempre collegati a un computer, fare shopping online, insomma ci sono tutte queste anche seduti ore, dottor Spizzi. Esattamente, con una condizione di isolamento sociale. Quindi il nostro organismo, cosa è successo al nostro organismo? Che abbiamo perso forza muscolare, perché abbiamo perso massa muscolare, abbiamo perso resistenza, cioè il cosiddetto fiato, perché si è ridotta la potenza aerobica, visto che non abbiamo avuto la possibilità di fare. E questo di solito è collegato anche nelle persone che magari hanno qualche problema di pressione arteriosa ad un aumento della pressione arteriosa. Quindi diciamo che è una condizione piuttosto importante e da gestire, ecco, non solo dal punto di vista della forza, ma generalmente della condizione della persona che è stata immobilizzata a casa per tanto tempo. Quindi, dottor Respizzi, non c'è da stupirsi se con la ripresa facciamo fatica a riprendere e avvertiamo tutta una serie di tensioni e dolorini. Assolutamente, questo è per forza si verifica questa situazione proprio perché la seduta obbligata o comunque insomma divano, letto, sedia, insomma la situazione in fin dei conti è sempre quella, crea delle retrazioni muscolari in un muscolo che si sta indebolendo, e quindi questo muscolo tende ad andare incontro ad uno spasmo, a dare la famosa contrattura muscolare, che è solitamente anche più o meno dolorosa, ma sicuramente fastidiosa, perché ci si sente tutti legati, ci si sente non in grado di fare in maniera elastica le cose che si facevano prima. Questo è il punto cruciale per l'apparato locomotore. Dottor Respizzi, consigli per la ripresa, in questo caso muscolare, senza dover poi pagare un conto troppo alto, perché dicevamo che l'entusiasmo, la voglia di fare sono dei segnali straordinari, ci caricano, però dobbiamo anche avere tutte le cautele necessarie per riprendere senza poi trovarci a misurare con dei dolori. Ad esempio, cito quella che, di cui tutti ci lamentiamo, la cervicale, ma poi posso anche che scendere alle spalle, per non parlare del mal di schiena. Certo. Dottor Respizzi. Dunque, questo è proprio l'aspetto cruciale. Essendo una situazione non nota, che stiamo appunto provando e studiando, la parola d'ordine è cautela, cioè ricominciare con molta calma. E mi sto riferendo a persone che non hanno avuto l'infezione Covid, persone che sono state immobilizzate ma che non hanno, per loro fortuna, subito l'infezione. Quindi molta cautela, la ripresa dell'esercizio nelle palestre che appunto sono state riaperte deve essere molto molto graduale, quindi vuol dire che nelle prime fasi io dovrò introdurre degli esercizi di ricondizionamento aerobico, che sappiamo che sono la cyclette, il treadmill, le macchine ellittiche, e progressivamente cominciare con degli esercizi a corpo libero, quindi cosiddetti a carico naturale, senza i pesi intendo dire, e progressivamente arrivare, man mano che con il nostro istruttore vediamo che la nostra risposta sta migliorando, a utilizzare le macchine coi pesi. Quindi la progressione è esercizio aerobico, cominciamo a darci il fiato, esercizio a corpo libero, quindi a carico naturale, quindi senza i pesi. Terzo step, quando man mano sono più in forma, rimettere anche i pesi. Tutta questa cosa può prevedere, secondo me, un 2 o 3 mesi di lavoro. Quindi molta cautela e molta attenzione ai segnali che il nostro corpo ci manda. Perché se c'è una contrattura muscolare, se compare un crampo muscolare, vuol dire che evidentemente stiamo esagerando ed è meglio quindi rallentare. E quello che lei citava prima, cioè i punti distretti più colpiti, sono sicuramente il rachide cervicale e le spalle, anche perché quelle persone che hanno fatto smart working evidentemente sono state collegate a un computer per molte ore, usano il mouse, magari su una sedia non perfetta rispetto a quelle che ci sono più economiche in ufficio, e quindi abbiamo accentuato delle condizioni di postura non corretta per il nostro organismo. Quindi quelli sono proprio dei punti in cui la nostra risposta corporea è molto più marcata. Senza dimenticare, dottor Respizzi, la schiena, certo. Dolore alla schiena che avvertiamo durante o dopo gli esercizi, ogni volta che ci alziamo dal divano o dalla sedia, sono sicuramente dei segnali che non vanno sottovalutati. Assolutamente, assolutamente. Nel caso specifico della schiena, oltre alle sedie che chiaramente, appunto, come già dicevo, a casa nostra non abbiamo delle sedie ergonomiche, di solito magari uno su una sedia della cucina, ma poi sicuramente in questo periodo sono passate molte ore davanti a un televisore, quindi sdraiati su un divano, che anche in questo caso sappiamo bene che è una condizione, soprattutto se il divano è molto morbido, in cui la colonna si piega in flessione sostanzialmente, ci si infossa dentro, e quindi anche la parte bassa, diciamo la parte lombare, più facilmente va incontro a una risposta negativa. Se contemporaneamente, come sicuramente è accaduto, ho perso anche un po' di caratteristiche dei muscoli addominali, cioè quelli anteriori, peggio ancora naturalmente. Quindi diciamo che sono due cose che vanno di pari passo, di pari sia passo. La parte cervicale che è lombare. Ricordiamoci sempre che il rachide è un unicum che parte a livello del bacino e arriva fin sotto la testa, quindi la colonna noi la dividiamo in cervicale, dorsale e lombare per comodità, per intenderci, ma in fin dei conti è un unico organo che si muove nello spazio. Dottor Respizzi, qualche tempo fa con lei abbiamo parlato delle potenzialità degli elastici. Anche in questo periodo ci possono aiutare come prevenzione di questi dolori, dolorini. Ci dà un'indicazione proprio pratica prima di salutarci? Assolutamente sì, la resistenza elastica è una resistenza molto dolce, graduale, adattabile all'organismo, quindi diciamo che nei passaggi che dicevo prima, negli step che descrivevo prima, sicuramente l'utilizzo dell'elastico può essere introdotto abbastanza precocemente, anche quando faccio corpo libero, perché l'elastico si adatta alle mie caratteristiche, quindi non rischio di creare un sovraccarico. Al contrario, invece, stimolando il muscolo che ha una grande capacità di recupero, per fortuna il muscolo sano, ricomincia a muoversi nella maniera corretta, a contrarsi nella maniera corretta, evitando appunto il sovraccarico. Quindi se io ho ad esempio una zona diciamo le spalle, facciamo l'esempio delle spalle, in cui sento dei dolori anteriori rispetto alla spalla verso il muscolo bicipite, che è la parte anteriore del braccio, eccetera, facendo questo tipo di esercizio così dolce, così graduale, rimetto in moto, risveglio il muscolo senza sovraccaricarlo, quindi sono assolutamente consigliati. Dottor Respizzi, io la ringrazio, proverò anche gli elastici. Pensi Brava, ottima idea. Un po', però ci sono dei colori differenti, io devo iniziare dal Ah, giallino. da giallino, sì. Giallo è Vabbè, quello più tanto. leggero, poi c'è il rosso, poi c'è il verde, si arriva fino a dei valori molto elevati che sono l'argento e l'oro, ma sono dedicati agli atleti quelli, mi spiace, ma non posso considerarla nella categoria degli atleti, insomma, diciamo così. Certo, dottor Respizzi, ma abbia fiducia, arriverò, salirò di colore in colore. Va Grazie al bene. dottor Respizzi per essere stato con noi. Grazie Buona a voi. Arrivederci. giornata. Buona giornata a Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, ad Anita Panizza in assistenza, a Laura Vanossi in redazione. Vi aspetto come sempre dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. E mi raccomando, non perdetevi di vista la pagina Facebook di Obiettivo Salute. Buona giornata.